Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'indice di povertà delle famiglie italiane ferma la crescita, riferisce l'Istat. Migliora la condizione delle coppie con figli, ma 4 milioni di italiani restano in povertà assoluta. Il Parlamento greco inizia il dibattito sulle riforme decise in sede europea. Intanto il Fondo Monetario si scaglia contro il piano. Senza taglio del debito non funzionerà. Roma e Milano giunte in difficoltà dopo le dimissioni dei vice sindaci. Il commissario del PD nella capitale Orfini: non ho intenzione di sostituire Nieri. Amianto condannati per omicidio colposo in appello 11 ex dirigenti Pirelli. L'inchiesta riguarda la morte di 20 operai a Milano. Il decreto del governo per far ripartire l'altoforno 2 dell'Ilva e Fincantieri nel mirino del GIP di Taranto, che ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. In apertura dunque i dati diffusi questa mattina dall'Istat sulla povertà. Sentiamo. Finalmente uno stop alla povertà e un miglioramento per le famiglie italiane, ma il nodo degli indigenti rimane, con circa 4 milioni di persone sotto la soglia della sopravvivenza. Dopo 2 anni di aumenti nel 2014, infatti l'incidenza della povertà assoluta in Italia, secondo l'Istat, si mantiene sostanzialmente stabile. Indagando sulla spesa delle famiglie, l'istituto ha rilevato come il numero di quelle in povertà assoluta sia di 1.470.000, il 5,7% di quelle residenti, per un totale di 4.102.000 individui. Stabili anche gli indici della distribuzione della povertà sul nostro territorio, con 4,2% al nord, 4,8% al centro e l'8,6% al sud. Dei cittadini in povertà, l'Istat fa diversi quadri che danno il polso della situazione in dettaglio. Il mezzogiorno, con 1.866.000 poveri che vi risiedono e che incidono per il 9%, le donne 2.044.000, i minori 1.045.000, il 10%, e gli anziani 590.000, pari al 4,5%. In compenso migliora la situazione economica delle coppie con figli. Quelli in povertà assoluta ci sono ancora, ma le percentuali sono cambiate, passate dall'8,6% al 5,9%, e anche per le famiglie con a capo una persona tra i 45 e i 54 anni sono diminuite, passate dal 7,4% al 6%. È stabile anche l'indice di povertà relativa. Oltre 2 milioni e mezzo di famiglie e quasi 8 milioni di persone hanno difficoltà economiche nel permettersi beni e servizi rispetto al livello medio di vita. Povertà relativa, ma comunque un malessere. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Su questo torneremo più avanti nel corso della trasmissione. Sentiremo un direttore centrale dell'Istat proprio su questi temi per capire a cosa è dovuto questo miglioramento, seppur parziale, della situazione. Torniamo in Grecia adesso, però, dove vanno al voto i provvedimenti, o vanno quantomeno alla discussione in questa fase, i provvedimenti frutto dell'accordo con i creditori e con l'Europa, con molte tensioni parlamentari e anche con tensioni con il Fondo Monetario Internazionale, tra il Fondo Monetario Internazionale e l'Europa. In diretta da Atene, Vittorio Darold. Buongiorno Vittorio, inviato dal Sole 24 sì. Ore. Allora, sì, come va la discussione? Effettivamente il ministro delle finanze Euclid Tsakalotos ha appena illustrato questa mattina alla Commissione il pacchetto da 3 miliardi che appunto prevede aumenti delle tasse e dei tagli alle spese pubbliche. Nel frattempo c'era la prima manifestazione dei dipendenti pubblici, che però è apparsa piuttosto stanca e rassegnata, non è stata una manifestazione degna di nota. Se ne prevedono altre 2 questa sera nel momento della votazione, una capeggiata dal Partito Comunista e l'altra invece ancora dai sindacati. Ma la questione oggi è tutta incentrata nel Parlamento. Il primo ministro, dopo il discorso di ieri sera, che ha fatto un bagno di realismo, quindi ha abbandonato le posizioni radicali, quelle di Yanis Varoufakis, che è stato messo alla porta e definito un buon accademico ma un pessimo politico, Tsipras oggi presenta ai suoi parlamentari, cercando di convincerli a non spaccare il partito e a votare, a mangiare, a bere questa medicina dell'austerity, perché altrimenti il paese andrebbe in bancarotta. Tutto quindi è ancora nelle mani di Tsipras, e che avrà però i voti dei partiti dell'opposizione, che gli hanno garantito comunque che il patto, il piano, verrà ampiamente votato da tutti e quindi avrà una maggioranza sicura. Naturalmente questa notte si farà ancora ore tarde come è consuetudine, ma il giorno dopo bisognerà vedere quanti dei deputati di Siriza hanno votato no e se a quel punto il governo dovrà scegliere di fare un semplice rimpasto o addirittura in qualche modo rimettersi alla volontà popolare. Le ipotesi maggiori sono quelle appunto di un semplice rimpasto, si parla di un cambiamento quantomeno del ministro dell'energia, la Fazanis, che è un po' il capo di questa ala radicale che sta facendo appunto guerra a Tsipras. Ti ringrazio, grazie a Vittorio Darold del Sole 24 Ore, inviato da Atene, per il punto sulla politica greca. Più avanti nel corso della trasmissione torneremo a parlare di Grecia e lo faremo con Alessandro Merli, sempre del Sole 24 Ore, per parlare invece di quello che sta dicendo in queste ore il Fondo Monetario Internazionale, che dice il piano così com'è non va bene, serve un taglio del debito. Ancora un dato economico arrivato questa mattina importante: la Cina è il secondo trimestre dell'anno, è cresciuta del 7% con la produzione industriale oltre le attese, un più 6,8%. Di tutto questo non ha beneficiato però la borsa di Shanghai, che continua a restare sotto i riflettori dopo i pesanti cali delle settimane scorse e le tensioni per le paure di un'esplosione di una bolla. La borsa cinese ha messo a segno un ribasso del 3%. La cronaca: 11 ex dirigenti della Pirelli sono stati condannati per la vicenda di una ventina di operai morti per l'esposizione all'amianto. Tra gli anni 70 e 80 gli operai subirono esposizioni massicce e ripetute alle fibre di amianto e per questo si ammalarono di tumore. Quasi 40 anni dopo, per quelle morti arriva la sentenza di primo grado. 11 ex dirigenti della Pirelli sono stati condannati per omicidio colposo e lesioni a pene tra i 3 e i 7 anni per quelle polveri respirate dai lavoratori negli stabilimenti di via Ripamonti e via Lesarca a Milano. Una sentenza più pesante delle stesse richieste dell'accusa, che pur avrebbe voluto 3 assoluzioni, ma per il tribunale tutti gli imputati, ex vertici della multinazionale dei pneumatici, vanno condannati per quell'assenza di protezione all'amianto. Molte famiglie degli operai sono state già risarcite dalla Pirelli per quelle rimaste nel processo, come la moglie e la figlia di un dipendente ucciso da un tumore. Ora il giudice stabilisce il pagamento di 200.000 euro. Complessivamente il gruppo è stato condannato a versare una provvisionale da 520.000 euro. Un processo difficile questo, che nel tempo ha visto aggiornare la contabilità delle vittime, ma anche il passaggio di imputati come l'ex amministratore delegato Paolo Sierra al vertice proprio dell'Associazione per la ricerca contro il cancro. Tra i condannati anche un altro nome simbolico della lotta ai tumori, quello di Guido Veronesi, fratello novantenne del celebre oncologo, che durante il dibattimento ha detto di non essere stato consapevole all'epoca della natura cancerogena dell'amianto. Solo nelle scorse settimane altri processi analoghi si erano conclusi invece con sentenze opposte. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sulla cronaca giudiziaria, perché c'è l'inchiesta sulla Tirreno Power che a quanto pare sta arrivando nei palazzi dei ministeri. Per la Procura di Savona, la centrale di Vado Ligure gestita da Tirreno Power ha inquinato l'ambiente per anni, causando una lunga serie di decessi oltre ad un aumento dell'incidenza di disturbi respiratori tra la popolazione dei comuni circostanti, in particolare tra i bambini. A sostenere l'accusa una perizia che nel marzo 2014 aveva portato al sequestro degli impianti. Ma in quelle settimane al Ministero dell'Ambiente qualcuno si era dato da fare affinché la centrale tornasse in attività. Addirittura c'era chi aveva pensato ad una leggina ad hoc, un escamotaggio che alla fine però non ha preso forma. Una porcata, come ammettono in una conversazione due alti dirigenti del ministero intercettati dai carabinieri del NOE. Nelle intenzioni il testo avrebbe dovuto essere redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico e poi firmato dal Ministero dell'Ambiente per consentire a Tirreno Power di aggirare le prescrizioni ambientali. I due dirigenti sapevano bene di agire illecitamente, ne erano quasi schifati. Ad un certo punto uno dei due dice: siamo dei farisei, mi sputerei in faccia da solo e meno male che siamo il Ministero dell'Ambiente. Non solo, si era pensato anche a delegittimare il lavoro della Procura, si era ipotizzato di inviare gli ispettori del CSM a Savona e ostacolare così il lavoro del procuratore Granero. In retroscena emergono dagli atti dell'inchiesta, per la quale sono indagate 86 persone, amministratori pubblici, dirigenti dell'azienda, dirigenti ministeriali e degli enti locali. Le accuse a vario titolo sono disastro ambientale e omicidio plurimo colposo, abuso d'ufficio e falso. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E a Taranto il GIP fa ricorso contro il decreto del governo che ha sbloccato l'altoforno 2 dell'Ilva. Come 3 anni fa sull'Ilva di Taranto divampa un nuovo scontro tra la magistratura e il governo. Il GIP Martino Rosati ha infatti impugnato alla Corte Costituzionale il decreto varato dall'esecutivo lo scorso 4 luglio al fine di impedire lo spegnimento dell'altoforno 2. Per il GIP questo decreto consente l'esercizio dell'attività di impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita e l'incolumità umana, senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi impianti alle tecnologie di sicurezza. È consentito per legge, dice ancora il GIP di Taranto, rivolgendosi alla Consulta, che un'azienda, se di interesse strategico nazionale, possa continuare a svolgere la propria attività anche quando tale esercizio sia suscettibile di aggravare o protrarre un reato. L'altoforno 2 è stato sequestrato senza facoltà d'uso dalla Procura di Taranto dopo l'incidente mortale di giugno. Il decreto legge, ora all'esame del Parlamento, non revoca il sequestro, ma consente comunque che l'Ilva possa proseguire la sua attività. Adesso sarà la Consulta a dire se il decreto è costituzionale o meno. Ad aprile 2013 la Consulta bocciò le eccezioni dei giudici di Taranto e disse che la legge del 2012, la prima legge sull'Ilva dopo l'iniziale sequestro degli impianti, è costituzionale. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto. La politica oggi tocca soprattutto il tema di due grandi comuni, quello di Roma e quello di Milano, dove ieri si sono dimessi i due vice sindaci, seppure con motivazioni diverse. Sentiamo. Un passo indietro per amore di Roma. Anche Luigi Nieri, braccio destro del sindaco Marino, si dimette. Citato nella relazione di Gabrielli su Mafia Capitale, ma non coinvolto nell'inchiesta, decide di lasciare per impraticabilità del campo, scrive in un lungo post su Facebook. Perché non intendo più sopportare questo gioco al massacro. Una decisione non improvvisa e non dettata da ragioni oscure, dice. Un'uscita inaspettata in realtà, che segue quelle di altre ben 7 figure chiave dell'amministrazione capitolina. Intanto Marino difende Nieri, è una persona di specchiata onestà, dice, mentre Forza Italia attacca la giunta in frantumi, Marino lasci. Di certo ora il quadro si complica e appare inevitabile un rimpasto, ma per il commissario del PD Roma Orfini occorre attendere il giudizio del ministro dell'Interno Alfano sulla relazione di Gabrielli, che, ricordiamo, ha allontanato la possibilità che il comune venga sciolto per mafia, ma ha posto pesanti ombre sul Campidoglio. Intanto un altro scossone per il centro-sinistra anche a Milano, dove si dimette Ada Lucia De Cesaris, vice sindaco e assessore all'urbanistica, braccio destro di Pisapia, anche qui dimissioni inaspettate. La versione ufficiale è che tutto sia nato da una lite su un'area comunale per cani da 20.000 euro. Lei scrive: è venuto meno il rapporto di fiducia con il PD e sullo sfondo in realtà c'è la partita all'interno del PD su chi sarà il candidato alle comunali di Milano nel 2016. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E su questi temi, soprattutto su Roma, su quello che può succedere adesso alla giunta Marino, torneremo più avanti nel corso della trasmissione. Resta in primo piano comunque il tema delle riforme, mentre il Presidente del Consiglio è in visita in Africa e parla di terrorismo. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Parole quelle del Presidente del Consiglio che arrivano appunto dal Kenya. In primo piano il tema del terrorismo. Renzi ha ricordato la strage di inizio aprile nell'Ateneo di Garissa, in cui morirono 147 persone. Non ci piegheremo mai al terrorismo, ha detto allora il Premier. Non daremo mai ai terroristi la possibilità di impedirci di avere un futuro migliore. Il capo del governo ha ricordato l'attacco al settimanale Charlie Hebdo a Parigi, l'attentato a Copenaghen, la strage nella scuola in Pakistan, gli attacchi in Tunisia e appunto il massacro nell'Unione Università in Kenya, tutti obiettivi assoluti. Ha sottolineato Renzi che colpiscono persone con differenti passaporti ma con gli stessi ideali e valori. Occhi puntati quindi del Presidente del Consiglio anche alla politica italiana, al cammino delle riforme. La determinazione, fa sapere il Premier, resta quella di lavorare ancora più decisi ma senza strappi. L'obiettivo resta uno, il referendum del prossimo anno, quando gli italiani diranno sì o no alle riforme. E su questo tema Simone faccia a faccia questa mattina al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Mattarella e il leader della Lega Salvini. Gli ho parlato delle riforme e su Renzi, che non può andare avanti da solo ma deve coinvolgere tutti. E così stava parlando il nostro Vincenzo Miglietta di quello che ha detto Matteo Salvini. Volendo ve lo posso riassumere io, perché come avete sentito la linea è caduta. Dice Salvini: ho parlato delle riforme, ho detto a su Renzi che non può andare avanti da solo ma deve coinvolgere tutti. altrimenti salta tutto. Siamo a disposizione per migliorare pessime riforme. Così Matteo Salvini, e grazie a Vincenzo Miglietta, che però non sentirà questo ringraziamento. Andiamo all'estero. Innanzitutto una notizia che ci arriva dalla Tunisia, dove il turismo è in forte calo dopo l'attentato terroristico di Sousse, quello del 26 giugno scorso. Secondo un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa tunisina, il numero di turisti registrati tra il 1 e il 10 luglio scorsi segna una flessione del 57% rispetto allo stesso periodo del 2014 e del 75% rispetto allo stesso periodo del 2010, che è l'anno di riferimento per gli operatori del settore prima della rivoluzione, la primavera del 2011. E adesso torniamo in Iran, all'indomani dell'accordo. Salam Donia, salam Sol, ciao mondo, ciao pace. È il grido di gioia diffuso su Facebook di tanti giovani iraniani, il 60% della popolazione totale, che ha celebrato così l'accordo sul programma nucleare firmato ieri, dopo una disputa che andava avanti da più di 10 anni. Hanno aspettato la fine del digiuno, poi a sera a fiumi si sono riversati nelle vie di Teheran per festeggiare. L'intesa è un successo per i negoziatori, Iran, Stati Uniti, Cina, Russia, Francia, Regno Unito e Germania, un successo anche per la piazza. Potrebbe aprirsi un'era nuova in Medio Oriente con un Iran stabilizzatore anche per la lotta contro l'ISIS. C'è da augurarsi che la crescita del peso politico di Teheran non stimoli prove di forza dei sunniti della regione, Arabia Saudita in primis. Col patto Teheran si impegna a non arricchire l'uranio oltre la soglia fissata per almeno 15 anni e permetterà i controlli agli impianti da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Iran ha lasciato libero di produrre la bomba nucleare, denuncia il premier israeliano Netanyahu, ma Obama assicura l'accordo non si basa sulla fiducia ma sulle verifiche e prova così ad ammorbidire il Congresso americano, che entro 60 giorni dovrà esaminarlo, poi approvarlo. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle cronache dal Tour de France. Dopo la vittoria schiacciante di ieri di Froome, qualche dubbio che sorge ancora una volta sul ciclista britannico. Piero Augusto Stagi, buongiorno. Piero Augusto? Non ci senti? Evidentemente oggi abbiamo qualche problema con i telefoni e con i collegamenti, che siano dalla camera o siano dalla Tour de France. Noi tra un attimo torniamo a parlare dei dati dell'Istat sulla povertà, torneremo a parlare di Grecia con la posizione del Fondo Monetario Internazionale. Intanto andiamo a sentire il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ferma la crescita, l'indice di povertà delle famiglie italiane, riferisce l'Istat, migliora la condizione delle coppie con figli, ma 4 milioni restano in povertà assoluta. Nel Parlamento greco inizia il dibattito sulle riforme decise in sede europea, il Fondo Monetario si scaglia contro il piano, senza taglio del debito non funzionerà, e adesso interviene anche la Commissione europea, che dice che preoccupa proprio la sostenibilità del debito greco. Roma e Milano, le giunte sono in difficoltà dopo le dimissioni dei vice sindaci. Il commissario del PD nella capitale, Orfini, dice: non ho intenzione di sostituire Nieri. E torniamo ai dati dell'Istat. Ci scrive un ascoltatore: come fate ad aprire dando enfasi ad una notizia che ci dice che la povertà è stabile? Ho i miei dubbi, bisogna avere la faccia come il sedere. Non lo diciamo noi, non è una questione di faccia come il sedere, lo dice l'Istat, sono dei dati, e come sempre quando forniamo dei dati non negativi, come in questo caso, e per usare le parole dello stesso presidente dell'Istat Alleva, diciamo sempre che non è che la situazione è rosea, è semplicemente che c'è un miglioramento, per quanto lieve, rispetto alla situazione precedente. Linda Laura Sabbadini, direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Giusto appunto chiamati in causa. Quindi un dato non negativo, per dirlo con le parole del vostro presidente. Abbiamo 1 milione e quasi mezzo di famiglie che sono in povertà assoluta, che poi vuol dire i più poveri tra i poveri, cioè coloro che non possono permettersi di comprare quel set di beni e servizi fondamentali che servono per avere una vita dignitosa. Quindi non solo il mangiare, ma anche tutto il resto, l'avere una casa, l'avere la possibilità di comunicare, di prendere trasporti e così via. Allora cosa succede? Che ovviamente il dato non è basso, siamo a 4 milioni di persone che stanno in questa situazione. Il dato, diciamo, positivo è che dopo 2 anni di crescita di questo segmento di popolazione così in difficoltà, La crescita si è arrestata, quindi conosciamo una stabilità che è trasversale al paese, al nord, al centro, al sud, e abbiamo dei segmenti che stanno migliorando. Ha citato le famiglie con figli, in particolare quelle con due figli, ma va citato anche le famiglie con a capo una persona tra 45 e 54 anni, e sembra strano anche quelle con a capo una persona in cerca d'occupazione. Quindi questo miglioramento è trasversale anche a tutti i segmenti della società? Allora, la stabilità della povertà è trasversale alle zone, quindi anche nel mezzogiorno la povertà assoluta è stabile, non aumenta, no? Il miglioramento è solo di alcuni segmenti, per esempio le famiglie di soli italiani migliorano, quelle dove ci sono stranieri no. Le famiglie con due figli migliorano, quindi vuol dire che si è abbassata in questo caso la povertà assoluta, e in più migliora anche le famiglie con a capo una persona in cerca d'occupazione. Sembra strano questo, stavo spiegando, però questo perché queste famiglie hanno al proprio interno più occupati o ritirati dal lavoro, cioè in sostanza magari una persona disoccupata, capofamiglia del sud, ha perso il lavoro, la moglie è riuscita a trovarlo, oppure hanno deciso di andare a vivere col proprio genitore anziano che ha la pensione, per capirci. Avete un'idea delle cause di questo stop, come dire, dell'aumento dell'indice di povertà, ossia ci sono degli effettivi segnali di recupero, o qualcuno chiederebbe più in fondo di così non si poteva scendere? Allora, il discorso è: il 2013 era stato un anno durissimo in termini di perdita d'occupazione, era stato un anno simile al 2009, no? Quando c'era stato l'inizio della crisi, con una perdita di posti di lavoro molto ampia. Il 2014 si è chiuso come un anno con un leggero aumento dell'occupazione, quindi l'emorragia che c'era stata nel 2013 si è interrotta. Nel 2015, come sappiamo, poi le cose si stanno ulteriormente evolvendo. Diciamo che questo è un aspetto importante, combinato con il fatto che comunque abbiamo anche un tasso di inflazione che è basso, che è molto basso, vicino allo zero. Allora, quindi complessivamente queste cose incidono anche rispetto alla povertà assoluta. Nello stesso tempo c'è una componente, che è quella anziana, che è molto meno toccata da questo fenomeno, perché tenete conto che poveri assoluti sono il 10% dei minori, l'8% dei giovani tra i 18 e i 34 anni, e solo il 4,5% degli anziani. Quindi in qualche modo questo segmento di popolazione anziana, che in passato, ma un passato anche ormai più lontano, negli anni 80 era il segmento in assoluto più a rischio di povertà, ora si trova in una situazione totalmente diversa, cioè i segmenti più a rischio di povertà assoluta ormai sono i minori e i giovani. Grazie a Linda Laura Sabadini, direttore del Dipartimento Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, per questi chiarimenti. Saluto Alessandro Merli del Sole 24 Ore. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Con te torniamo a parlare di Grecia e soprattutto della posizione del Fondo Monetario Internazionale, che è sembrato, da quel che abbiamo letto sui giornali anche sul Sole 24 Ore oggi, è sembrato sostanzialmente scagliarsi contro il piano approvato dai capi di Stato e di Governo europei per la Grecia, dicendo sostanzialmente ci vogliono delle misure consistenti sul debito, altrimenti tutto questo non funzionerà. Abbiamo capito bene lo schema, il tema è questo? Diciamo che gli europei vedono il prosieguo della vicenda greca in due tappe. Prima i greci applichino il programma, facciano vedere che adottano queste misure e ne mostrano i primi effetti, e poi a settembre si parlerà di un eventuale alleggerimento del debito. Il Fondo Monetario fa presente che ha delle regole ben precise per cui non può partecipare a un salvataggio se non sono coperte tutte le necessità di finanziamento del paese, e quindi in sostanza, diciamo, se non ci sono i soldi e se il debito non è sostenibile, cosa che non avverrebbe in questo passaggio in due tempi, o comunque vorrebbe dire che il Fondo Monetario resta fuori dal salvataggio fino almeno fino a settembre, e se il fondo monetario resta fuori i conti non si chiudono. Quindi c'è un contrasto, diciamo, fra la volontà degli europei di scaglionare questo salvataggio della Grecia e le regole del fondo monetario, se vogliamo anche un po' indotte dal fatto che dentro il fondo monetario ci sono delle resistenze molto forti a dare degli altri soldi alla Grecia. Non dimentichiamoci, il fondo monetario ha ricordato recentemente che ha 188 paesi, la stragrande maggioranza è molto più povera della Grecia e molti non vedono perché si debba continuare a dare dei soldi ai greci invece che ai paesi africani, per esempio. C'è e vedi una via d'uscita, Alessandro, a questo contrasto sostanzialmente che c'è tra l'Europa e il Fondo Monetario? Ma non è facile, perché indubbiamente ci sono questa doppia interpretazione, diciamo, dell'accordo, e il Fondo Monetario, questo documento è uscito oggi, ma già l'aveva presentato al vertice del fine settimana, quindi gli europei erano consapevoli di questa cosa, però politicamente per gli europei, in particolare per i tedeschi, ma anche per molti altri, era difficile dire diamo subito ai greci un alleggerimento del debito. Non è facile, forse il Fondo Monetario vorrà almeno che ci sia un impegno più preciso su questo fronte da parte dell'Europa, perché poi alla fine questo debito da ristrutturare, allungando le scadenze, abbassando i tassi di interesse, qua è tutto debito o verso i paesi europei direttamente oppure attraverso istituzioni europee. Grazie ad Alessandro Merli del Sole 24 Ore per questi chiarimenti anche sulla posizione del Fondo Monetario Internazionale e sul perché il Fondo Monetario Internazionale ha preso questa posizione. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, ci sono i mercati e poi nella parte successiva della trasmissione ci occuperemo di Roma. Vedremo di capire come può andare a finire la vicenda della Giunta Marino dopo le dimissioni del vice sindaco Nieri e delle tensioni che continuano ad attraversare la politica della capitale. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Non abbiamo obiezioni al pacchetto di riforme che è al voto adesso, così fonti europee sul, appunto, pacchetto di riforme che deve essere varato in giornata dal Parlamento greco. Tensioni all'interno della parte politica di Alexis Tsipras, Syriza. L'indice di povertà delle famiglie italiane ferma la sua crescita, riferisce l'Istat, migliora la condizione delle coppie con figli, con due figli, ma 4 milioni di italiani restano in povertà assoluta. Roma e Milano giunte in difficoltà dopo le dimissioni dei vice sindaci. Amianto condannati per omicidio colposo in appello, 11 ex dirigenti Pirelli. Alla borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione dell'indice di povertà delle famiglie italiane che ferma la sua crescita. I dati sono dell'Istat, del miglioramento della condizione di una parte della popolazione italiana, in specie le famiglie con due figli, dei 4 milioni di italiani che restano in povertà assoluta. Abbiamo parlato di Grecia, con il Parlamento che inizia a discutere del piano di riforme, dell'amianto, della condanna per omicidio colposo in appello per 11 ex dirigenti Pirelli. E adesso ci spostiamo su Roma. All'indomani delle dimissioni del vice sindaco Nieri, che non è indagato ma il cui nome compare tanto nell'inchiesta su Mafia Capitale quanto nel rapporto che adesso all'esame del ministro dell'interno Angelino Alfano, il famoso rapporto di Gabrielli, quello con il quale si dovrebbe decidere, cosa che probabilmente non avverrà, e l'abbiamo detto molte volte, l'eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Roma, della giunta e del comune, del Consiglio Comunale di Roma. Ne vogliamo parlare con Giovanna Vitale, che è una collega giornalista della Repubblica e che sta seguendo tutte le vicende del Campidoglio in queste settimane. Giovanna, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, vorrei capire da te, prima di tutto, che cosa rappresenta l'uscita di scena di Nieri per la Giunta. direi che è l'ennesima scossa di un terremoto che comunque è in atto ormai da diverse settimane. Era chiaro che la relazione di Gabrielli, del prefetto Gabrielli, sullo scioglimento sì o scioglimento no del Campidoglio, che come sappiamo ha avuto esito negativo, nel senso che Gabrielli non ritiene ci siano gli elementi per sciogliere il Campidoglio per mafia, di diverso avviso rispetto alla relazione della commissione prefettizia, che invece appunto era arrivata a conclusioni diametralmente opposte. Il problema è che la relazione di Gabrielli contiene tutta una serie di riferimenti all'attuale amministrazione comunale, oltre che chiaramente a quella precedente, che in qualche modo hanno messo in difficoltà il cammino della Giunta Marino, e Nieri si è dimesso proprio per questo, perché è stato citato più volte sia nella relazione della commissione prefettizia e pare anche nella relazione di Gabrielli. Teniamo presente che questi sono atti coperti ancora da segreto, ma che stanno uscendo sui nostri giornali ormai, sì, insomma, più o meno costantemente, anche qua. Anche qua, diciamocelo Giovanna, tanto varrebbe renderla pubblica, insomma, perché no, è quasi uno stillicidio di informazioni che filtrano. Tutto bene per noi giornalisti che poi le pubblichiamo e quindi, come dire, riusciamo a vendere di più i giornali, però forse a questo punto varrebbe anche la pena rendere pubblica questa relazione. Perfetto, insomma, però lui ha detto le relazioni sono ancora segretate almeno fino a quando non si esprime il ministro Alfano, quindi insomma non dipende da noi. Naturalmente. Voglio capire questo dall'idea che ti sei fatta, che quanto può reggere ancora Marino, e può reggere ancora effettivamente? Ma guarda, secondo me a questo punto davvero tutto dipende da un po' anche dal Presidente del Consiglio, nonché segretario del PD Renzi, che in questi giorni sta rimanendo molto molto molto in silenzio rispetto a questa vicenda, nel senso che ha ben presente che c'è un caso Roma, ha delegato il commissario Orfini. Come sappiamo, tra Renzi e Orfini su questa vicenda ci sono state delle divergenze, nel senso che Renzi avrebbe voluto in qualche modo accelerare la chiusura per andare al voto con le altre grandi città nel 2016, mentre Orfini ha detto in realtà si può andare avanti con una squadra diversa, no? Facendo quel salto di qualità. Lui ha parlato di salto di qualità, di rilancio dell'azione amministrativa. Il problema è che non si riesce ancora a capire bene se ci sono ancora queste condizioni. Tieni presente che prima avevano detto, il commissario Orfini aveva detto aspettiamo la relazione di Gabrielli, una volta arrivata la relazione di Gabrielli hanno detto aspettiamo la relazione di Alfano, quindi è evidente che stanno prendendo tempo perché non hanno le soluzioni, anche perché il quadro viene terremotato giorno dopo giorno. Prima è andato via il segretario Iudicello, sempre perché appunto richiesto, indicato nella relazione come uno dei dirigenti che non avrebbe fatto nulla per contrastare, diciamo, le pratiche scorrette che poi hanno dato luogo, hanno, diciamo, ingrossato gli affari di Mafia Capitale. Poi è stato il turno di Mattia Stella, capo segreteria del sindaco Marino, poi è in uscita l'assessore ai trasporti in Prota, e poi adesso è il turno di Nieri. Insomma, devo dire che reggere è molto difficile, è un vero e proprio stillicidio. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e nelle prossime settimane. Intanto io ti ringrazio, grazie a Giovanna Vitale, collega del quotidiano La Repubblica, che sta seguendo queste vicende. Abbiamo recuperato, l'abbiamo perso nel primo blocco, nella prima parte della trasmissione, così come era successo ieri, sostanzialmente Pier Augusto Stagi in diretta dal Tour de France. Pier Augusto, buongiorno. Ci sei? Buongiorno. Ci sei? Ti abbiamo recuperato, insomma, è chiaro che i collegamenti sono un po' difficili, soprattutto sulle tappe. In mezzo alle montagne, suppongo, in mezzo alle montagne. Pier Augusto, allora, siamo all'indomani della tappa che ha visto questa straordinaria vittoria di Froome, sulla quale però si addensa qualche dubbio, da quel che abbiamo capito. Beh, c'è chi grande fermento qua al Tour questa mattina, la partenza da Po, praticamente tutta la stampa internazionale era attorno alla moto Rome del Team Sky, della maglia gialla Froome, tantissime le polemiche, ha destato ammirazione da un lato la vittoria di ieri in maniera netta, nettissima, fin troppo evidente, e logicamente, come sempre accade in questi casi, quando c'è un denominatore, quando c'è un corridore che dimostra di essere un professionista e sembra solo apparentemente che stia lottando con un gruppo di ragazzi della scuola ciclismo, e di aumentano, diventano veramente delle montagne grandi come il Firmamento. Pier Augusto, scusami, siamo veramente sfortunati in questi giorni, io non so che cosa farci, anche oggi l'audio era pessimo, proveremo a trovare qualche altra soluzione, che ne so, magari Skype o qualcosa di questo genere, magari funziona un pochino meglio. Traffico.